amici del Move to Groove. Oggi facciamo gli auguri di compleanno a un giocatore che ormai ci ha lasciato da quasi 20 anni. Oggi spegnerebbe 83 candeline, Dave DeBuscher, una delle migliori ali grandi della storia dell'NBA. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te Paolo, grazie per questa pregevole palla 2, per questa attenzione che dà adito a continuità e discontinuità non solo nel mondo della pallacanestro ma tra le epoche. Di questo parleremo. Prima alcuni dati anagrafici del nostro protagonista Dave DeBuscher. Allora, quando i primi ascolti e le prime visioni di un NBA che a fine 79 inizia anni 80 in Italia con queste sintesi di telecronache che con Dan Peterson creavano una grande passione, ovviamente vi erano citazioni. Dave DeBuscher, ricordiamo questo grande, oppure Jerry West o Bill Russell o Bob Cousy, insomma tanti giocatori, e noi ovviamente si ascoltavano questi nomi, ma tanto era il fascino per gli atleti in campo: Larry Bird, Kevin McHale, Julius Erving, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e tanti altri, in un periodo di grande rivoluzione. Ma questa rivoluzione nasce da una continuità, e questi grandi protagonisti, tra cui DeBuscher, di cui parleremo a breve, ne è stato indubbiamente ed essenzialmente uno tra i più importanti atleti, e non solo per quanto riguarda esattamente un periodo di preparazione. E da questo, poi, per non parlare solo di pallacanestro, quanto l'andar del tempo negli anni non è sempre motivo di, tra virgolette, progresso, non sempre è evoluzione il passar del tempo. Come ho detto, vi è una continuità, ma ci può essere anche una discontinuità. Perché dico questo? Non per essere sempre il solito nostalgico passatista, che peraltro magari sono, per onestà intellettuale non lo nascondo, ma ho i miei buoni motivi, e andremo ad analizzare queste motivazioni tra un episodio di carriera e l'altro per David Albert DeBuscher, che nasce a Detroit il 16 ottobre del 1940. Dal Michigan troverà poi la sua fortuna, e più che fortuna direi la sua abnegazione, il suo lavoro, la sua massima espressione per quanto riguarda la carriera nella NBA, nei New York Knicks, dove giocherà per diverse stagioni. Sarà anche allenatore nei Detroit Pistons, ma iniziamo con una particolarità della sua carriera, in questo caso da atleta. Lui ha dovuto scegliere, e tra i pochi atleti, un altro lo cito, è Danny Ainge, grandissimo cestista, che ha dovuto scegliere tra MBL, la Major Baseball League, e la NBA, in quanto è stato prima scelta sia per quanto riguarda la pallacanestro sia per quanto riguarda il baseball. Il baseball viene scelto dai Chicago White Sox. Per quanto riguarda il basket, nella sua Detroit arriverà per poi esordire definitivamente e scegliere quello che è un percorso legato alla NBA. Vincerà due campionati con i Knicks nel 70, quelli storici, con un eroico Willis Reed, e nel 73 8 All-Star Game disputati, incluso 6 volte nel miglior quintetto difensivo della Lega. La sua maglia numero 22 è ovviamente stata ritirata dai New York Knicks, e nel 1983 è stato introdotto nell'Arca della Gloria. Nel 97 il suo nome è stato incluso nella lista commemorativa dei 50 migliori giocatori del cinquantenario della NBA. Siamo a New York, ascoltiamo questa presentazione di Pee Wee Marquette. Tra poco torneremo in diretta per saperne e conoscere di più, e non solo per quanto riguarda un grande Dave DeBuscher. When you applaud for the different passages, your hands go right over the records there, so when they play them over and over, throughout the country. You may be someplace and say, well, that's my hand on one of those records that I dug down at Birdland. We're bringing back to the bad side at this time, ladies and gentlemen, the great Art Blakey and his wonderful group featuring the new trumpet sensation, Clifford Brown. Horace Silver's on piano, Lou Donaldson on alto. Curly Russell is on bass. And let's get together and bring Art Blakey to the bandstand with a great big round of applause. How about a big hand now for Art Blakey? Thank y'all. Hubbard nella Cantaloupe di un giovanissimo Herbie Hancock è stata abbinata dagli Ass Three la presentazione di Pee-wee Marquette a questo brano. In realtà Pee-wee Marquette sta dando presentazione ai Jazz Messengers del batterista Art Blakey. Sono coinvolgenti queste presentazioni, sono molto attente e anche molto competenti, soprattutto riescono ad aumentare ulteriormente, se mai ce ne fosse bisogno, la passione per la musica, l'attenzione per l'ascolto, seppur con poche parole. È un po' come lo speaker delle arene o dei palazzetti dello sport, eh? Michael Jordan, non vorrei sbagliare protagonista, ma a lui hanno chiesto questa domanda che io trovo abbastanza folcloristica, anche perché è utopia, è impossibile chiaramente, ma lui l'ha trasformata, sapete, da vincente, anche in maniera concreta e realistica. Viene chiesto a Michael Jordan, poi Paolo mi correggerà se sto prendendo un refuso, ma secondo lei, se si potesse fare una partita tra i grandi protagonisti degli anni 80 e quelli dei primi anni 90 e quelli che vi sono adesso, secondo lei questa partita come finirebbe? Michael Jordan dice: ah beh, probabilmente vinciamo noi di 2 o 4 punti, sì. Ma scusi, come può essere sicuro anche di uno scarto? Ok, comprendo la sua sicurezza, certo, e come. Ma come può essere sicuro anche di uno scarto, poi così esiguo? Eh beh, ma noi abbiamo già dai 65 ai 70 anni, eh? Cioè lui è convinto adesso di riuscire a tenere testa a una formazione, a un all-star contemporaneo di atleti e di cestisti. Io questo, ovviamente la domanda era incentrata con le condizioni migliori degli atleti dell'epoca, immagino, ma questa sicurezza che certamente non potrà mai essere provata e indubbiamente non propongo neanche a voi di dare risposta testa, perché è veramente come rispondere se va più veloce una motocicletta o se è più dolce la Nutella, ecco, per dire, sono domande alle quali non si potrà mai dare una risposta. Quello a cui abbiamo risposta è a proposito di una continuità, allora, periodo legato agli anni di Dave Debuscher, il periodo legato agli anni 80 e i primi anni 90, e poi una discontinuità invece, è stata un'evoluzione, è stata un'involuzione ai posteri l'ardua sentenza, ovviamente, sicuramente qualcosa di molto tangibile, non è stata di certo una continuità con la pallacanestro dell'epoca dove il nostro protagonista era veramente importante per il parquet di New York del Madison Square Garden e non solo, ovviamente. Lui 1,98 è la tipica ala, può essere sia ala forte che anche giocare da esterno, è un giocatore presentissimo al rimbalzo, è un difensore tra i migliori di tutti i tempi, ma soprattutto, oltre che avere punti nelle mani, sfiora i 20 punti a lunga carriera, per lunghe stagioni nella sua carriera, sia a Detroit che a New York, dà una grande presenza sotto le plance, vola a 10 rimbalzi a partita, è un atleta bianco, è un atleta che ha come arma fondamentale un'intelligenza cestistica veramente invidiabile, e di questo poi, nell'importanza di questo approccio, avremo modo di conoscere i dettagli al prossimo rientro per il Mood Groove odierno di martedì 17 ottobre. Sì, Willy, una carriera in NBA con un anno come pitcher dei Chicago White Sox dell'MLB, del baseball americano. Di sicuro Jordan l'ha buttata su anche una secondo battuta, me. Ma io sono convinto che lui abbia ragione. Se giocassero adesso al meglio delle capacità fisico-atletiche i giocatori degli anni 80 con quelli odierni, per me quelli degli anni 80, con le regole cestistiche di come Dio comanda, perché oggi come oggi anche gli arbitri sembrano essere andati a sud, secondo me quelli degli 80 ce la potrebbero ancora batterli, quelli odierni. Alla chitarra e il brano è Boogaloo, un'interpretazione al tenore di Stanley Turrentine. Oggi grande hard bop newyorkese, Blue Note, un po' di rare groove, un po' di hard bop, di mainstream jazz. Anche perché l'epoca è quella della nascita anche di Dave DeBusschere fino ad arrivare al suo esordio in NBA. Il draft è quello del 1962. Vedremo alcuni protagonisti del 1962. Non chiedetemi, viene chiamato come quarto, ma in realtà risulta prima scelta. Alcune dinamiche, ammetto, per quel periodo non mi sono chiare, ma vedremo nel concetto poi di prima scelta come Dave DeBusschere rispetterà esattamente quello che per Detroit, perché parte con i Pistons, sarà un motivo di valore aggiunto. Nell'autunno del 63 prese la sofferta decisione di dedicarsi esclusivamente alla pallacanestro, anche in seguito alla gratificante proposta di Fred Zollner, il proprietario dei Detroit Pistons, di ricoprire l'importante carica. Attenzione, per dire l'intelligenza cestistica, vi ho parlato, no, di questa peculiarità. Allora, Zollner gli offre un ingaggio importante perché, nonostante la giovane età, lui è prima scelta, inizia, sono altre epoche, ribadisco, però il suo ingaggio arriva come giocatore e allenatore. Appunto, a ricoprire l'importante carica di allenatore, la cui panchina addirittura viene guidata da lui per 3 stagioni, dal 65 al 67, e da subito in NBA Dave è riuscito a mettere in mostra il suo grande potenziale, fatto di difesa molto molto con applicazione importante, versatile, intelligenza cestistica fuori dal comune in attacco, tornando al ruolo unico di giocatore. E ovviamente tutto ciò è legato a qualcosa di importante anche con il carisma per il ruolo di allenatore. DeBusschere poi riesce a giocare con maggior tranquillità e concentrazione, annotando la sua miglior stagione durante il periodo a Detroit, che, pur disponendo di un'altra stella di casa che era Dave Bing, grandissimo giocatore, purtroppo non riuscì a fare strada ai playoff. Questo doppio ruolo certamente richiedeva un impegno molto molto tosto, molto duro. Non esiste quasi neanche più, se non in situazioni di basket intermedio o minore, la figura dell'allenatore giocatore. È una figura sulla quale ho dei dubbi pure io, ecco. L'Hammond, organo Hammond, lo standard Alfie, quello che stiamo ascoltando. Lui è Big John Patton, organo Hammond B3. Yeah. 875 partite in NBA per regular season, 16 punti di media e 11 rimbalzi e 3 assist a stagione. Direi che sono medie. E poi oltretutto, adesso i numeri, certo, io sono il primo a guardare queste statistiche, erano fondamentali per noi, non c'era YouTube, non c'erano tutte queste situazioni per poter avere. Adesso poi se vai su YouTube vedi solo le schiacciate, per cui, o i tiri da metà campo, quindi non è che capisci molto l'importanza di un atleta, tanto più che io chiesi: ma a questo talento di cui tutti mi parlate, ho voluto visionare un po' questo giocatore, questo Vince Carter, no? Che tutti dicono è un fenomeno. Io ho visionato alcuni aspetti da YouTube, sono solo schiacciate, tra l'altro eseguite in maniera irregolare, facendo passi, portando la palla in condizioni assolutamente impensabili. Certo, un grandissimo atleta, un grandissimo saltatore, ci mancherebbe altro. Poi consultandomi con chi segue ancora la pallacanestro, e guarda che ha dei grandi fondamentali, guarda che è un giocatore completo. Sì, ho capito, ma non si capisce da quello che viene proposto, perché unicamente vi è la spettacolarizzazione. Questo è uno degli aspetti, tra l'altro, criticabili. Però direi che tra continuità e discontinuità vi sono tante altre sensazioni da sottolineare, magari nella seconda parte del Move to Groove odierno. Ora un'attenzione al draft, cioè alla griglia di scelta del 1962. Allora, lui è risulta come primo, ma in realtà è al numero 4, viene scelto da Detroit e esce dal college dei Detroit Titans, i Titani di Detroit. La seconda scelta è Jerry Lucas, che andrà a giocare a Cincinnati, poi verrà scambiato, ottimo giocatore tra l'altro. Zelmo Beatty, ma quello sul quale mi cade l'occhio è John Havlicek, la stella uscente da Ohio State, che finirà a Boston. Grandissimo giocatore John Havlicek. Ecco, questi gli atleti che più mi sono restati in mente nel draft del 1962. Ho parlato di un'ottima carriera a Detroit, addirittura in un ruolo atipico ma fondamentale. A metà della stagione 68 e 69 i Knicks, che più delle altre franchigie erano stati insistenti nei suoi confronti, lo acquistarono in cambio dell'ottimo centro Walt Bellamy e della guardia Howard Cornibus, e arriverà un altro cambio di carriera con New York. Insieme, certo, ero in buona compagnia a New York, ma di questo ne parleremo nella seconda parte del Breakfast Club, nel Move to Groove di oggi. Continuità e discontinuità. Cifre importanti, ma Dave DeBuscher il meglio lo dava in difesa, infatti quasi presente nei quintetti difensivi NBA, primi, secondi quintetti, lui il meglio lo dava in difesa. Era uno specialista della difesa, grandissimo rimbalzista, che di fianco a un grande pivot come era Willis Reed faceva veramente dello spolvero sotto canestro. Dall'altro, curiosità, al draft fu scelto fu una delle primissime scelte proprio con quel Jerry Lucas, sì, che sarà poi il suo compagno di squadra e vincerà anche un titolo NBA con i New York Knicks. 8 titoli NBA, 26.000 punti, 8.000 rimbalzi, 6.000 assist. John Havlicek è ampiamente tra le prime 10 ali piccole della storia dell'NBA. Spooky, ma vi siete mai chiesti, no? Parliamo di continuità e discontinuità. Allora, grandissimi protagonisti, noi giovanissimi, 10 anni, 11 anni, 12 anni, non riusciamo a distogliere gli occhi da Larry Bird, Dennis Johnson, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jamal Wilkes, Julius Irving, e potrei andare avanti ad oltranza. Sentivamo poi parlare di Bill Russell, Will Chamberlain, Dave DeBuscher, Earl de Pearl Monroe, più recente, ma citiamo anche Pete Maravich, questi grandi, lo stesso Dave DeBuscher, oggi protagonisti. E come mai tra questi e i giocatori invece che sono stati i nostri eroi c'è stata una continuità? In che senso vi è stata una continuità? Ecco, in questo caso sì che si può parlare di evoluzione del gioco, di una continuità. In che modo? Beh, una certa definizione, un'eterogeneità, una tecnica, un'intelligenza cestistica, e infatti questo lo vediamo poi nella vita anche di tutti i giorni, in quello che è stato il rapporto tra vecchi atleti e atleti della nostra generazione. Certo, venivamo ripresi e come, ma mai ho sentito dei commenti come sto sentendo adesso, ora che noi siamo i vecchi. I nostri vecchi su di noi non hanno mai fatto questi commenti. Certo, c'era modo di riprendere, hai fatto una scelta sbagliata, non stai difendendo, e come, ma non vi erano mai commenti così distaccati e del tipo ora è veramente un altro sport. È per questo che dico una discontinuità. Anche questo è una delle sensazioni, uno dei motivi, per meglio dire, che mi porta a fare riflessione tra società e pallacanestro, la rivoluzione digitale o l'involuzione che poi ha portato alla digitalizzazione vi è stata ovviamente di mezzo, chiaramente tanti altri motivi che riguardano la nostra società, perché sappiate che i momenti di vero sport e quella che è l'attualità anche in quotidianità hanno delle attinenze. Il Move to Groove è qui anche per questo e secondo me sono molto più incisive e molto più presenti di quanto si possa pensare. Nella musica. Certo, vi è la parte di improvvisazione, vi è una tecnica incredibile, lui è Larry Young. Oggi sto sottolineando molto l'organo Hammond, stiamo ascoltando Heaven on Earth, il paradiso sulla terra. Chitarrista lo riconoscerebbe anche un appassionato di altri stili musicali, perché è talmente evidente questo All Star. Sono le corde di George Benson. '60, '70, '80 e anche buona parte degli anni 90 la pallacanestro è andata sempre a migliorarsi. Tecnicamente si giocava ancora una pallacanestro che è pallacanestro con un continuo miglioramento fisico-atletico. Ecco, il guai è che adesso si gioca, si migliora, ma cioè, fisicamente, atleticamente si migliora ancora di più, ma non si gioca più nel contesto cestistico, cioè si fa totalmente un altro sport, che c'è stata talmente un'evoluzione fisico-atletica a discapito della tecnica e della tattica che siamo veramente andati fuori dal gioco della pallacanestro oggi come oggi. Sì, questo è una linea a parte che condivido parola per parola, però bisogna motivarlo, ecco, con delle sensazioni, con degli aspetti concreti. Ok, noi possiamo continuare perché noi visivamente e dal punto di vista dell'esperienza e della competenza lo sappiamo, anche se vi sono ovviamente grandissimi appassionati che non riescono, giustamente, ci mancherebbe, ad arrendersi e continuano, ma è fattuale, cioè è una cosa. Però bisogna motivarle, la critica è quanto mai importante. Quando è motivata, ovviamente, è ancora meglio, direi, no? Cioè, George Mikan o Bill Russell, guardando Kareem Abdul-Jabbar giocare, non avrebbero mai avuto la sensazione: ok, questo è un altro sport, dai, no, ma non è più pallacanestro. Magari avrebbero, magari dicono, però questo giovanotto qui, insomma, la critica è inevitabile, ma arrivare a una dicotomia così forte a una critica così forte, non ci sarebbero mai arrivati, perché è un aspetto di evoluzione che poi improvvisamente in una data ben precisa, secondo me l'86, poi certo che avremo una normalizzazione che sarà con durata oltre, però da lì in avanti la normalizzazione poi chiaramente è inevitabile, dalla normalizzazione alla decadenza. Ecco, il protagonista di oggi come intelligenza cestistica, appunto, proprio perché oggi l'intelligenza cestistica è uno degli aspetti protagonisti nel Mood Groove, che ha voluto portare l'attenzione su una continuità e poi una discontinuità, un altro sport. Se nell'86 mi avessero detto, guarda che tu la pallacanestro, quando arriverai a 40 anni, ma che 40 anni, a 30, 35 anni, ok, giocherai ancora qualche partita, perché però guarda che tu la pallacanestro non la seguirai più, io ok, follia, se ciao, in che film? Ah, figurati, è la mia vita. È venuto quando sono andati a scemare i ruoli, adesso ci sono anche i players, ossia i giocatori che devono essere in grado di fare tutto, tirare, passare, prendere in base, difendere, ma che non sono più collocati nei vari ruoli che erano una volta la pallacanestro. Per me è lì che è sparito il basket, secondo me. Qui potrei tornare a tediare con l'uniformità del quintetto di Chicago, che praticamente era uguale tra Kukoc, Harper, Jordan e Scottie Pippen. Ma guarda che questo è solo un aspetto, perché ve ne sono diversi. E appunto oggi ne abbiamo analizzato uno che mi è venuto in mente quando hai proposto Dave Debuscher, perché questi motivi di ricerca vengono ispirati da Paolo con queste ricorrenze di atleti, no? Che hanno sempre, guarda caso, delle attinenze con un aspetto filosofico, in questo caso la continuità e la discontinuità, con quello che non solo è lo sport nel percorso degli anni. Jokic è il più forte giocatore del mondo, l'ho visto giocare un minuto e mezzo. Ok, non dà una continuità, ok? Non ha stravolto il ruolo del centro. Ralph Sampson, Arvydas Sabonis. Bill Walton. Attenzione, non sto screditando questo o questi grandi campioni, tutt'altro, anzi sto evidenziando le discontinuità, ma ci mancherebbe. Siamo così, purtroppo il nostro protagonista prematuramente viene stroncato da un arresto cardiaco, come ho detto è nell'arca della gloria della pallacanestro, vince due titoli con delle formazioni stellari, veramente con Earl de Pearl Monroe, Walt Frazier, Willis Reed, Dave Debuscher, insomma direi proprio che dopo il ritiro rimane legato alla pallacanestro, prima in ABA, perché è stato il general manager dei New York Nets, saranno poi New Jersey Nets in NBA, e ha anche avuto la carica di commissioner dell'American Basketball Association. scompare il 14 maggio del 2003 a soli 62 anni, che possa riposare in pace. Ha dato tantissimo alla pallacanestro, un esempio, un atleta, condivido con Paolo, non solo tra le prime 10 ali nella storia della pallacanestro, ma anche una figura importante per quanto riguarda l'applicazione e l'intelligenza cestistica. E con questo abbiamo terminato il nostro Move to Groove odierno. Grazie Paolo Onofri per il contributo da remoto. Domani vi ricordo che vi è il Voltiamo Pagina con Silvia Albertazzi, l'incipit in partenza dopo il GR di Radio Popolare. A breve l'Edipeo enciclopedico e a seguire avremo la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Mi raccomando, il vinile della settimana di Andrea Gozza, format che nel cuor mi sta. Dalle 10.30 alle 12.30 questa possibilità per voi, il vinile della settimana vi terrà compagnia sulle frequenze di Radio Città Fujiko. La colazione è domani alle ore 7 con il Breakfast Club. Grazie per l'attenzione, dal vostro William Piana un caloroso abbraccio e un buon martedì, una buona giornata e un buon ascolto sui 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani!